L'estasi. Essere in contatto provoca estasi. Oggigiorno l'estasi viene contemplata soltanto con l'uso di sostanze aggiuntive o falsi miti di felicità. Spesso viene sostituita da stati di ebbrezza raggiunti in gruppo nelle feste religiose e non, e da illusioni come la bellezza, l'amore, la ricchezza e la gioventù, per colmare la potente nostalgia di unirsi al sapere profondo della sostanza fondante del nostro essere. L'estasi, se scollegata dai dettami di scarsità e mancanza, non è ben vista né bene accolta. È al massimo qualcosa riservata ai santi delle religioni riconosciute o ai santoni di culture lontane osservati con curiosità voyeuristica. Attingere all'estasi senza un motivo legittimato da parte chi presume di tenere in mano le chiavi di questo stato di benessere e agio incondizionato risulta quindi un atto di disobbedienza e trasgressione. L'estasi attinge alla beatitudine autoctona e indipendente e si svincola dalla felicità concessa e tollerata del potere gerarchico e delle brame commerciali. È la necessità vitale di entrare in stati alterati, esplorare altri mondi e altri modi d'essere, allargare le estensioni finora conosciute. Si riflette nei riti di iniziazione e transizione che sono presenti in tutte quelle culture in cui non sono stati aboliti dalle strategie monopolistiche della spiritualità monoteista. Esiste un bisogno vitale di attraversare gli stati dell'estasi che servano come acceleratori nei processi di transito, come sostegno per oltrepassare le soglie sul cammino della crescita, come apriporta per i reami spirituali che passo dopo passo si schiudono alla viaggiatrice e al viaggiatore. Il fenomeno dell'abuso di droghe è il manifestarsi della mancanza di una cultura dell'estasi nella società occidentale attuale. Sarebbe molto utile ricreare una cultura dove chi sente bisogno di alterare e allargare il proprio stato dell'essere e ha il desiderio di compiere un passo sul cammino della crescita, potesse rivolgersi a delle persone o a delle comunità competenti nell'accompagnamento di tale processo, che possano fornire gli strumenti adeguati al tragitto e alla persona. Uno strumento potente ed efficace che altera gli stati di percezione è la musica, di cui sono riconosciute le facoltà guaritrici e che costituisce un elemento indispensabile nel lavoro magico e sciamanico. Credo che, in fondo, quello che caratterizza una buona musica è la sua capacità di trasmettere l'estasi, che sia provocata da un'opera complessa e geniale o da un suono unico, da un ritmo semplice di un tamburo o un sonaglio, non ha importanza. Il canticchiare dell'agricoltrice sul campo in fondo non è altro, sempre di cambiare aria si tratta, di stimolare il rilascio delle sostanze intrinseche al sistema fisico per alleggerire il corpo e la mente, per aprire i canali e far entrare la piacevolezza dell'essere e il ricordo della bellezza originaria di tutto l'esistente. I rave della musica techno offrono in più la condivisione, cioè la copertura del permesso collettivo di lanciarsi in relativa anonimità oltre i confini consueti. Anche il sesso è un potente strumento per accedere a stati di estasi e sperimentare passaggi iniziatici. Può fornire sollievo distinguere cosa in fondo ci spinge a volere del sesso, quale desiderio base ci trasporta verso l'incontro con un'altra persona. Può alleggerire la situazione, sapere di poter fare a meno del mito dell'amore e riconoscere lo struggente desiderio di unione con il tutto, l'abbraccio con l'amore cosmico, facilitato da una persona specifica o anche da più persone. Il rapporto stesso può giovarsi della chiarezza della motivazione e la fusione con un'altra persona può essere compresa come una porta che ci può dare accesso al tutto e all'estasi. Certo che non c'è di meglio e che si crea un grande desiderio di vivere questo stato. Ecco la sovrapposizione degli schemi sociali e culturali ai desideri spirituali e vitali che si crea il pericolo di dipendenza dall'altra persona. Quando ci si dimentica della spinta originaria di riunirsi alla creazione stessa, si perde l'autonomia, inciampando nel livello umano. Il lavoro sciamanico opera con gli stati di estasi ed è presumibile che l'aumento degli ultimi decenni di offerte di sciamane e sciamani provenienti da altri continenti e culture sia dovuto al crescente desiderio vitale di oltrepassare i limiti della consapevolezza consueta per poter accedere a stati di trance. Non credo sia necessario né consigliabile l'uso di droghe. Ci sono tante sostanze nel proprio corpo che possono essere rilasciate con la giusta stimolazione e che infondono beatitudine incondizionata e abilità di spaziare nell'illimitato con minore rischio rispetto a sostanze esterne di perdere radicamento nel corpo e nella mente. Nella mia pratica con le donne finora non si è mai manifestato il desiderio di servirci di droghe per poter entrare nelle esplorazioni sciamaniche. Il giorno che avremo fatto la nostra strada e ricomposto i nostri aspetti interiori e le nostre facoltà, dopo aver creato una base solida e flessibile su cui poggiare per lanciarci oltre, se poi dovessimo sentire l'invito delle piante portatrici di sapere altro, sarò felice di cogliere l'ispirazione e seguirla, riattingendo a usanze condivise da tanti popoli e accettando con gratitudine l'accompagnamento delle piante stesse. Nel frattempo posso consigliare la modalità dell'essere in contatto che più di ogni altra suscita e coltiva l'estasi, non soltanto in occasioni speciali come una cerimonia o la condivisione spirituale con le altre, ma nella semplice passeggiata nel bosco, nel lavoro nell'orto, nell'operosità artigianale e creativa, secondo la propria indole. L'adempiere, nella misura attualmente possibile, al piano stipulato prima che iniziasse questo giro incarnato, e quindi dichiararsi e dimostrarsi a servizio per le richieste di qualsiasi manifestazione materiale e immateriale, è l'atteggiamento che porta allo stato d'estasi nella quotidianità. La sintonia e il rilassamento che suscita nel corpo e nella mente fa sbriciolare gli schemi e i meccanismi di sopravvivenza, lasciando che si liberi la strada, semplicemente verso l'essere. Mostrarsi. C'è una condizione base, però, che precede tutte le manovre di contatto e che non può essere sorvolata, ed è il mostrarsi. Non è possibile stabilire un contatto senza metterci la faccia. Nel contatto spirituale questa faccia corrisponde al farsi vedere interamente e autenticamente, sia con i lati poco amati, i traumi, la vergogna, i segreti, che con lo splendore spesso nascosto, la brillantezza, il coraggio, la serenità, l'amorevolezza, l'unicità e la bellezza. Mostrandoci sperimentiamo potenza, sfida e il potenziale sollievo dell'essere in contatto. Non c'è nascondiglio, sarò vista con tutto ciò che sono, con la mia meraviglia e con i miei abissi. Con l'atto del mostrarsi viene stabilito il prerequisito per il contatto. Ho una faccia, sono presente. A volte fa molta paura questo gesto del mostrarsi e non è del tutto sorprendente. Forse si sta accedendo alla memoria del corpo, al campo morfico. E il ricordo di come è stata l'ultima volta che ci siamo mostrate integralmente può non essere un ricordo piacevole. Ma non c'è nulla da temere, perché nel mondo, oltre il materiale, tutto equivale. Non c'è necessità di nascondersi. Sono accolta nella mia complessa unicità. Non esistono giudizi, opinioni, gerarchie, e ogni manifestazione è amata in ugual modo, incondizionatamente. Posso semplicemente essere. 12 fate in cerchio, la danza dell'equivalenza. Come si è visto nelle esplorazioni proposte in questo testo, considero trattare le difficoltà all'interno delle situazioni conflittuali un passo successivo, sempre che sia ancora necessario, alla creazione di una base culturale rivista e reinventata. Si rimarrebbe in superficie operando sui sintomi, senza scendere nella tana dove nasce e fiorisce il disagio, nutrito incessantemente dall'attuale stato di disconnessione. Abbiamo raccolto gli ingredienti, abbiamo accennato a un'organizzazione sociale alternativa. Ora si può provare ad accogliere il conflitto fra le donne in modo multidimensionale e abbracciare tutti i componenti di cui siamo fatte, qui ed ora, per ritrovare il nucleo sacro e illeso che ci accomuna, quanto la sofferenza degli strati più superficiali. Accorgersi che la propria sofferenza è un sintomo di disagio condiviso, riflesso di un contesto socio-culturale costruito sull'eredità storica e su specifiche convinzioni spirituali, apre alla donna la comprensione della cornice in cui la sofferenza stessa si manifesta. Di conseguenza, le si pone l'opzione della scelta. Dove mi rivolgo? Cosa rivolto? Quanto rivoglio? Chi frequenta dei gruppi di donne conosce la loro potenza e il loro valore. Immergersi periodicamente in un campo energetico che è dichiaratamente e a priori dalla parte delle donne è un balsamo rivitalizzante a cui diventa difficile rinunciare una volta assaporato. I gruppi di autostima, le proposte dei centri antiviolenza, i raduni di ricerca sulla spiritualità femminile, ma anche gli incontri per fare il pane, per fare musica, praticare yoga o meditazione, condividere letteratura, filosofia, discussioni, camminare insieme, esplorare musei, città e paesaggi, potersi raccontare. Tutte le esperienze cambiano in un campo esclusivamente femminile. La sorellanza, una volta liberata dalla forza distruttiva del conflitto, è un legame che rinforza, dà energia e non dovrebbe mancare a nessuna. È il succo con cui creiamo un'altra realtà. La quotidianità delle donne fino all'inizio del Novecento è stata, soprattutto fra quelle di ceto inferiore, piena di incontri e collaborazioni, i lavori agricoli condivisi, la collaborazione nell'artigianato, nel tessile, nelle sartorie, nei laboratori di ricamo e secoli prima anche nelle arti della costruzione, della falegnameria, la cura della prole, gli incontri magia dei lavatoi, colmi dei suoni meditativi, del rumore dell'acqua, dello sbattimento dei panni, delle chiacchiere, delle risate, erano dei punti fermi nella vita delle donne, momenti in cui potevano uscire dalle condizioni magari non felici del matrimonio o della famiglia. Lì creavano i canti intonati insieme, con i quali potevano volare oltre il materiale e ristorarsi nel pozzo della femminilità. Dopo gli sconvolgimenti delle guerre, le femministe degli anni 70 dell'ultimo secolo hanno ripreso la tradizione degli incontri fra donne, forse all'inizio inconsapevoli della continuità con cui si intrecciavano e della portata politica che ne sarebbe scaturita. Si sono rinforzate a vicenda, condividendo e accogliendo il loro vissuto specifico di donna, che non esisteva nella concezione pubblica. In questi incontri e nelle reti che hanno iniziato a stabilirsi fra i vari paesi europei e oltreoceano, è nata la seconda ondata del femminismo, rivoluzionando tanti paradigmi della società. Tutte le ricerche con un approccio di genere sono arrivate in seguito come risultato e nuovo alimento del fermento creato dall'esplorazione della realtà femminile. Tutte e tutti beneficiamo delle conquiste fatte in questo contesto, che oggi spesso sono considerate scontate. Mettersi in un contesto femminile comporta immancabilmente una reazione del sociale che ci circonda, perché si avverte che il nutrimento dato per scontato viene messo in forse e che la linfa sensuale che tiene in piedi il sistema si prende la libertà di dirigersi secondo la sua volontà, invece di dimorare nelle certezze del patriarcato. Spesso quando si parla di femminismo, lasciando da parte tutte le opinioni diffamatrici create per ridicolizzarlo ed emarginare il suo significato sociale e politico rivoluzionario, e di uguaglianza dei sessi, emerge il desiderio che le donne e gli uomini vadano di pari passo, che il maschile e il femminile si possano incontrare e riconciliare. Sarebbe bellissimo se esistessero già pari condizioni. Invece è innegabile che non esistono. È un'illusione pericolosa e fuorviante, portata avanti in tanti ambiti di guarigione spirituale, psicologica, filosofica, olistica, e da quanti sostengono che la riconciliazione del femminile e maschile sia il rimedio massimo e unico, la ricetta con cui si risolvono le problematiche interiori e lo stato desolato della terra. Non ritengo possibile, nella situazione attuale, considerare alla pari le donne, né sul piano dei diritti, né riguardo alla naturale dignità dell'arricchente differenza di genere. Riconosco lo struggente desiderio del maschile di riassaporare dentro di sé le qualità che sono considerate femminili. È encomiabile il lavoro intrapreso da gruppi di uomini come Maschile Plurale o Gli Uomini in Cammino di Pinerolo per ridefinire un maschile anch'esso liberato dal giogo patriarcale. Ma ritengo che non ci può essere autentica riconciliazione senza riconoscimento delle reali differenze di potere e libertà di azione, che definiscono oggi la condizione privata e pubblica delle donne. Non mi sembra possibile arrivare a un intero sano, ricongiungendo due parti fragili e increspate da sconvolgimenti epocali. Anzi, temo che si creerebbe ulteriore scompiglio. Coltivare invece la qualità autonoma del proprio sesso crea il presupposto per potersi incontrare in massima stima, fluidità e indipendenza, festeggiando la magia della danza che unisce e libera. L'eterosessualità coatta può essere sostituita dalla libertà di scelta, per assicurare che l'incontro avvenga con volontà cosciente, invece di corrispondere all'idea di doversi completare con l'uomo, come se non fossimo complete da sole, cedendo alle illusioni del mito d'amore. Partecipare attivamente alla qualità vibrante del campo femminile e alla ricerca intellettuale e spirituale differenziata può essere concepito come il lavoro preliminare per contemplare un incontro sano e arricchente fra le donne e fra donne e uomini. L'uguaglianza fra i sessi, che ancora oggi per tante e tanti sembra essere la meta ultima, include soltanto l'assenza di gerarchia nella valorizzazione, nell'accesso alle risorse e al potere. Non contempla la qualità sociale e politica esplicitamente femminile, caratterizzata dalla diversità specifica della sua autenticità spirituale e dalla sua volontà di creare, proprio con l'espressione della differenza, agio ed equilibrio per tutto e tutti e tutte. Dichiararsi dalla parte delle donne vuol dire non essere dalla parte del patriarcato. È la decisione di rivelare dentro di sé e all'esterno i condizionamenti sfavorevoli alla libera espressione di qualsiasi manifestazione della vita e riacquisire così l'autenticità nella differenza. Ciò può provocare contestazioni più o meno aperte, espressioni di disprezzo e stereotipi svalorizzanti. Ma è la chiave per abbandonare le illusioni trasmesse da miti patriarcali e lasciare che emergano nel vuoto che si crea proposte altre, più veritiere, più vicine a delle necessità autentiche. Dichiararsi dalla parte delle donne vuol dire anche esprimere la disponibilità a far riemergere quell'energia prettamente femminile, la cui mancanza ha portato al presente stato desolato della terra. Include quindi una scelta precisa e responsabile di esserci e agire per il bene di tutte e tutto. Anche se negli ultimi decenni la condizione sociale e politica delle donne è migliorata, ancora molta della loro sofferenza rimane sconosciuta o taciuta e persiste il sortilegio dell'isolamento. La sofferenza della donna è considerata spesso un elemento naturale dell'animo femminile. E nella società è ancora sottovalutata la gravità della violenza maschile contro le donne, che è l'espressione dei paradigmi patriarcali. Di conseguenza, vengono ignorati i suoi effetti e quanto costa alle donne e alla società. Manca un'adeguata politica di prevenzione e formazione degli operatori coinvolti, come manca l'inserimento di questi temi nel percorso scolastico. Così può succedere che una donna, dopo aver deciso con tanta difficoltà di denunciare la sua condizione di vittima di violenza domestica o di stupro, non venga accolta adeguatamente e addirittura venga chiamato l'autore del disagio per informarlo su quello che sta facendo la sua donna. Mancano strutture di accoglienza e sostegno in grado di accogliere una donna fragile per gli abusi subiti e restituirle quell'autostima che le permetterebbe di riappropriarsi delle sue facoltà. L'isola remota. Uscire dall'isolamento della sofferenza è un passo indispensabile per cambiare paradigmi, sia personali che condivisi. Trovare da sola il coraggio e il contesto adeguato per esprimere la propria sofferenza non è molto facile. Potersi confidare in un campo esclusivamente femminile garantisce il sostegno della riconoscenza e del riflesso delle altre, alimenta l'autostima e offre un accompagnamento pratico e spirituale. Comunicare la sofferenza al di là del giudizio e della vergogna è uno strumento potente. È necessario per spezzare il sortilegio della cosiddetta normalità. È la mossa con cui ci si mette in rete con le altre per nominare gli elementi fondamentali per una propria realtà dignitosa. L'isolamento vive della vergogna. Renderla pubblica, nella consapevolezza del campo condiviso di ricerca, ammetterla a se stesse e quindi alle altre, costituisce un passo fondamentale per uscire dallo stato di sofferenza imprigionante che impedisce la limpidezza nel proprio sistema e nel rapporto con le altre. È utile riconoscere e ammettere che ci vergogniamo in relazione a dettami di adeguatezza, disponibilità economica e furbizia, che ci vergogniamo per la nostra diversità, gusti stravaganti, talenti fuori moda, interessi non consentiti nel mondo di Barbie, appartenenza spirituale. Per come è fatto il nostro corpo, sempre sbagliato in confronto all'immaginario pubblico della donna, per le persone che ci piacciono, per gli sbagli che facciamo, ci vergogniamo di vergognarci. La vergogna è fra gli elementi, come il dolore, il trauma, la minaccia, che fanno scattare il ritiro nel guscio. Verso la presunta sicurezza, l'intoccabilità, il porto salvo, la tana nascosta. Solo che da lì è difficile comunicare. La sofferenza, anche se avvertita, diventa inaccessibile a se stesse e al resto del mondo e ci si ritrova nell'isolamento. L'isolamento è un metodo geniale per mantenere la donna gestibile e lontana dalla sua potenza esuberante. Capire che la sofferenza ha i suoi motivi d'essere può costituire una via di uscita dall'isolamento. Non è stupida, non è sbagliata, è semplicemente l'espressione di un disagio di fondo che si diffonde inevitabilmente con la privazione della propria dignità. L'isolamento costringe la donna in una situazione di massima difficoltà e minima efficacia, e con possibilità ridotte di conciliare eventuali ambizioni professionali. Lo si può vedere nella condizione di madri sole con figli che non hanno il sostegno di una rete di altre madri, donne amiche e uomini amici. L'isolamento mantiene la donna in una situazione di obbedienza, senza confronto e possibilità di esplorazione del suo vissuto profondo, impedendole la ricerca di reti di sostegno. L'isolamento culturale e spirituale inibisce l'autonomia della donna, la sua potenzialità di particella splendente e responsabile, obbligandola a dover attingere, per le sue necessità di nutrimento, soltanto dal partner. L'isolamento crea, con la sua povertà implicita, economica quanto spirituale, uno stato di scontentezza diffusa e spesso incompresa, che frequentemente porta alla depressione, a malattie psichiche e fisiche, a comportamenti disperati, senza che si riesca a comprendere da dove provenga tutta questa sofferenza. L'isolamento è il frutto della restrizione sul solo livello umano di bisogni che lo superano immensamente, della perdita della cultura spirituale legata alla terra e alla saggezza delle donne, della desolazione e rassegnazione nel non trovare risposte alle esigenze intime, dell'eco di richiami disperati in uno spazio inerte, svuotato, inabitato. Il gusto dell'appartenenza. Scegliere il contesto dell'appartenenza è un privilegio ancora tutto da creare. Permettersi di appartenere a una propria dimensione spirituale e a delle persone che favoriscono la libera espressione della diversità è permettere e permettersi di riconsegnare l'appartenenza scontata alla famiglia, quando non è nutriente, e di fiutare invece le tracce delle affinità elettive, trovando complici per organizzare delle realtà sociali altre sorprendenti, divertenti e rivoluzionarie. È l'ancoramento nella dimensione transpersonale e la certezza di una cornice idonea per i movimenti dell'anima che ci donano autonomia e libertà, rendendo sereno e fluido anche il contatto con altre persone. La risonanza nel tocco delle diverse dimensioni è in fondo quello che rende magico l'incontro fra le persone, quello che crea la meta in comune, il progetto collettivo. Con lei sorge il gusto dell'appartenenza insieme all'ebbrezza della danza condivisa. Sarebbe illusorio negare l'importante influenza che hanno su di noi i comportamenti e le informazioni che ci arrivano dall'esterno, però esiste una condizione di autonomia che permette a queste influenze di attraversarci con fluidità, che non ci fa attaccare all'altra persona sotto il dettame dei bisogni, che ci consente di accogliere stimoli, anche forti o dolorosi, come indicazioni sul sentiero, come il veleno che certi uccelli applicano sugli occhi dei piccoli per farglieli aprire. In Italia esiste ancora il concetto di clan, nel senso della famiglia estesa, anche se per lo più distorto. La matriarca detiene un certo potere, ma si muove comunque all'interno di leggi patriarcali. Ciò nonostante, nella sua funzione di fulcro magnetico, crea la sensazione di culla, di nido, di naturalezza e protezione, espressione di un'accoglienza consolidata. Potrebbe invece essere allettante riappropriarci del concetto di clan, ridefinendolo e riempiendolo di paradigmi che non si affidano all'amore mononucleare come unica salvezza e soluzione. Il gusto dell'appartenenza potrebbe essere spostato dal legame di sangue alla sintonia energetica, per coltivare il conforto del sostegno, della convivenza, dell'aiuto reciproco, anche economico, delle decisioni condivise e dell'accompagnamento nella ricerca spirituale. Per il godimento di raccontarsi e sapere di essere comprese, per la leggerezza di potersi mostrare senza segreti. Lo stato disastrato della Terra dimostra chiaramente dove porta l'assenza e la sottomissione del principio femminile. Curando noi stesse, e cioè riscoprendo la specificità della qualità femminile, ci prendiamo di nuovo cura di lei, della madre, della grande madre. Con il desiderio di poter essere utile per tutte e tutti e tutto, conviene provare a reinventarsi una società in sintonia, partendo dal cerchio delle donne, lasciando che si possa consolidare quello specifico succo femminile che attualmente manca a tal punto da far deperire noi e questo pianeta con i suoi infiniti abitanti. Possiamo intensificarlo con l'esperienza rinnovata dell'autenticità spirituale e la dimestichezza ritrovata della condivisione della realtà femminile, per lasciare che irradi e ritrovi il collegamento in accordo alle frequenze dell'essenza della vita. Quando avremo ristabilito e ravvivato quel collegamento vibrante, quando sarà limpido il campo che ci unisce e potente la sua carica, quando saremo convinte di aver creato un tessuto vigoroso e colorato, flessibile e resistente, potremo accogliere chi comprende il valore e la bellezza della convivenza matriarcale e desidera entrarci. Terzo raccolto. Eccoci nel frutteto. È ora di fare una passeggiata nel giardino delle delizie, di camminare adagio sotto gli alberi, esaminarne i frutti pronti per essere raccolti. Se ne potrà fare una bella composta. Li abbiamo accompagnati nella crescita, ne abbiamo visto aumentare il volume, definire il colore, il profumo, raggiungere il loro gusto unico. Abbiamo colto l'inscindibilità del frutto dalla sua pianta madre, dall'aria che lo avvolge, dall'humus più o meno colmo di sostanze nutritive, dall'ondeggiare armonioso dei cambiamenti stagionali o dalla presenza di diluvi furiosi o di siccità torride. Facciamo un giro nel frutteto a passi lenti, con la cesta appesa al braccio per metterci dentro quelli più riusciti, più maturi, quelli che ci vengono incontro, che ci chiamano dalla chioma dell'albero, che sono caduti pronti per essere consumati. Li annusiamo, assaggiamo, valutiamo, godiamo. Una bella raccolta, diversificata, abbondante, profumata. Ci darà da mangiare per del tempo. Adagiandoci sotto il melo, facciamo scorrere le immagini dei sentieri percorsi, degli elementi incontrati per strada fino ad arrivare al frutteto, dei cambiamenti eseguiti. Le dita giocano con le lisce rotondità delle mele raccolte, mentre appoggiamo la schiena e la testa al tronco ruvido, con gli occhi che cedono volentieri sotto i raggi filtrati dalle foglie, chiudendosi piano alla luce abbagliante e calda che accarezza il viso e il corpo, accompagnate dall'impercettibile battito d'ali delle farfalle e dalla sinfonia variegata degli insetti. Scivoliamo in quello stato galleggiante e sereno in cui la materia non si distingue più, in cui l'energia vitale è lì, accessibile e rigenerante. È quello stato di attenzione altra, intrecciata con il profumo che sale dalle mele nella cesta, che incuriosisce Lilith e la fa sbucare fra le foglie dell'albero. Inesorabile e furibonda, come sempre, è comunque felice di trovarci lì, finalmente di nuovo pronte, nell'estasi dell'abbandono, ad accogliere il suo frutto, quello vero stavolta, quello dell'acume discernente e della sapienza incompromettibile, quello dell'integrità sferica che contiene i semi per creature future, uguali e infinitamente diverse, quello che sazia e conforta e dà la forza di valicare la soglia verso la dignità illesa, al di là delle manifestazioni temporali, in quella dimensione in cui tutto è incondizionatamente e contemporaneamente. In quella dimensione la dormiente ti porge un pezzo del suo corpo fibrillante dei colori di tutti i tempi e ti contempla con la sua presenza indistinta e disinteressata, regalandoti la consapevolezza dell'importanza del tuo agire ora, qui, del tuo stare bene, in completezza per attingere nella massima libertà alle offerte e alle richieste di questa manifestazione. Il conflitto fra le donne si trasformerà in ispirazione creativa e sfida esaltante quando accoglieremo, accantonando i divieti e la vergogna delle nostre memorie, la dimensione immateriale, differenziata e specifica dell'essere donna. È il momento di ritrovare una qualità esplicitamente femminile, scendere verso il potere naturale, scansando le incrostazioni patriarcali, toccare di nuovo l'abbondanza e la dignità dell'essere divine, di essere donna che sa della vita e della morte, del fare e del disfare. È il momento di coltivare delle azioni magiche per i transiti, delle occasioni di estasi per festeggiare la meraviglia della vita e onorarne l'essenza che nutre tutte, tutti e tutto, incondizionatamente, e stimare la ricchezza della diversità al di là dei ruoli prefabbricati. È il momento di sviluppare la nostra autonomia tramite il radicamento nel mondo transpersonale, tramite la certezza dei legami, delle facoltà e dei compiti. È il momento di dispiegare la generosità verso noi stesse e verso le altre, ora che conosciamo gli intrecci e i traumi, di accogliere ognuna nelle sue possibilità e di coltivare la capacità di esserci accompagnatrici attraverso le soglie, consapevoli del campo morfico condiviso. Questo ancoraggio in una cultura che integra le infinite espressioni vitali con l'indelebile legame individuale e i suoi specifici aspetti, renderà più semplice costruire le condizioni idonee a una vita in sintonia, all'utopia che si desidera per potersi onorare nella complessa autenticità. Mi accorgo della dimensione storica, politica, culturale in cui ognuna è intrecciata e da cui agisce. Comprendo quindi il bisogno profondo e la provenienza contemporaneamente personale e transpersonale della conflittualità. Sviluppo gratitudine per l'altra, che assume per me il ruolo di quella che contrasta per adempiere alla mia necessità di un certo quadro, offrendomi così l'occasione di capire e, se possibile, risolvere. Osservo, al di là dell'espressione conflittuale, il dono che mi viene offerto, le informazioni, i movimenti, le sensazioni, le illuminazioni. Riconosco gli atti di violenza, anche nelle più delicate sfumature, soprattutto, prima di scrutare nel sistema dell'altra, nel mio comportamento, lasciando che mi portino alla ferita, alla lacuna che li alimenta. Accolgo tutto quello che mi succede perché è la mia realtà individuale. Lo stesso avvenimento può essere percepito in maniera del tutto differente da un'altra persona. Sono io a creare il mio vissuto e a gestire la mia vita. Accetto il potere che ho nel condurre la mia vita e abbandono la tattica di attacco-difesa, prendendomi cura di parlare di me stessa e di essere consapevole del mio bisogno. Osservo l'effetto specchio della realtà esterna con quella interiore, per poter leggere meglio il desiderio profondo, la strada segnata da tempo e, ciò nonostante, sempre modificabile. Sfido amorevolmente l'altra nella condizione della ricerca condivisa, permettendoci di essere compagne perspicaci e inesorabili, sostenitrici dell'autenticità individuale, fedeli complici solidali nella riscoperta della responsabilità e del piacere dell'essere donna. Quando incominceremo ad accogliere il conflitto nelle nostre realtà e relazioni come elemento fertile e poderoso, quando non distingueremo più fra quelle che vivono il conflitto e quelle che se ne tengono fuori, quando verrà tolto il giogo della vergogna e ne verrà fatto un argomento politico che ci riguarda tutte, al di là del piano interpersonale, portando a tutte cambiamenti profondi, affidabili, temprati e verificabili, allora potremo complimentarci e iniziare a costruire su queste fondamenta limpide e consapevoli la realtà che renderà obsoleto tutto il discorso di questo libro, una realtà che riconosce la dignità e bellezza nella diversità e nella differenza, che si colloca nell'abbondanza della terra e che potrà incamminarsi a passo sicuro e sereno verso la costruzione del benessere. E ci rimarrà tanto più tempo per cantare e ballare. Fine.